America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24, da New York, Mario Platero. Cominciamo subito con una canzone ispirata di Aretha Franklin. Rispetto. Perché Aretha Franklin? Beh, perché questa straordinaria cantante sta preparando il birthday party, il compleanno di un deputato che si chiama Charlie Rangel, un deputato afroamericano di Harlem che ha un fortissimo seguito qui a New York, ma che ieri purtroppo è scivolato, e dunque di rispetto, come diceva appunto la grande Aretha, purtroppo non ne ha più. Perché? Beh, la commissione etica della Camera ha stabilito che Rangel ha commesso delle infrazioni, fra le tante cose addirittura, pensate, e questo che è imbarazzo per il presidente, ha avuto delle bustarelle per certe trivellazioni offshore. Immaginate, proprio in questo momento in cui c'è lo scandalo della British Petroleum, e dunque Rangel è in gravi difficoltà. E dunque Rangel, afroamericano, diventa un simbolo anche lui di corruzione. Ricordiamolo, era un esponente della sinistra del partito. Ma a parte questo imbarazzo, ovviamente, per un personaggio politico che in qualche modo aveva sostenuto Barack Obama, il presidente americano ieri si è attaccato al telefono cercando di chiedere scusa a Shirley Sherrod, che è quella signora di 62 anni, dipendente del Ministero dell'Agricoltura, che è stata licenziata in tronco per colpa di un video. Bene, Barack Obama ha chiamato addirittura 3 volte senza trovarla. Perché? Beh, perché dopo la reazione fortissima del Dipartimento dell'Agricoltura ci si è accorti che si era presa una bufala. Era stata tutta una montatura di un gruppo di destra che aveva creato un video in cui sembrava che questa signora facesse del razzismo al contrario. Ebbene, il problema di fondo che sta esplodendo in questi giorni in America riguarda proprio la vicenda razziale. Si parla molto di razzismo. Si pensava che con l'arrivo di Barack Obama alla Casa Bianca forse di razzismo si sarebbe parlato meno. Invece se ne parla in tutti i modi, razzismo al contrario, come nel caso di Shirley Sherrod, che avrebbe attaccato degli agricoltori perché bianchi, non concedendogli dunque degli aiuti. Ma se ne parla anche nel caso, per esempio, di Sarah Palin. Il sindaco Bloomberg, a un certo punto imbarazzatissimo, è stato accusato di aver detto che Sarah Palin era razzista. Sarah Palin, ricordiamolo, ex governatore dell'Alaska, eroina dei repubblicani, grande personaggio, eroina soprattutto dei Tea Parties. Che cosa aveva fatto Sarah Palin? Aveva scritto su Twitter che, secondo lei, un gruppo islamico che voleva aprire una moschea vicino a Ground Zero avrebbe commesso un enorme errore, e un funzionario vicino a Bloomberg l'ha accusata di razzismo. Abbiamo con noi in studio Christian Rocca, collega del Sole 24 Ore. Buongiorno Christian. Buongiorno a voi. Allora, tu hai affrontato il caso di Shirley Sherrod proprio oggi, l'hai visto dal punto di vista dei media, ma esiste secondo te, per cominciare a parlare di questo, un problema razziale in America, nonostante l'America abbia eletto un presidente nero? Ma secondo me non c'è nessun spettro razziale che si aggira per l'America, come si dice, come si ogni tanto. Di recente mi ricordo che è stato l'ex presidente Jimmy Carter che ha fatto delle dichiarazioni di questo tipo: in America c'è ancora lo spettro razziale. Secondo me non è vero. Io vorrei l'opinione di Carter e di altri, insomma, è sicuramente autorevole, ma mi sembra che sia molto più autorevole l'opinione dei milioni di americani che quasi 2 anni fa hanno eletto in modo entusiastico Barack Obama. Gli americani di destra, di sinistra, del nord, del sud, bianchi, neri. E vorrei anche ricordare una frase che lo stesso Barack Obama, subito dopo le elezioni, mi pare al David Letterman Show, ha detto: I think it's important to realize that I was actually black before the election. Cioè, lui stesso ha voluto sottolineare sì. che, guardate, che ero nero anche prima delle elezioni, insomma, e quindi non è che improvvisamente questo problema si è risolto per le sue elezioni. Eppure, Christian, eppure se ne parla perché, per esempio, ascoltiamo che Barack Obama è anti-business e che cova in qualche modo un sentimento anti-business per la sua provenienza non soltanto di sinistra, ma per essere cresciuto in un contesto in cui, ad esempio, uno dei preachers, uno dei suoi predicatori, ricordiamolo, il reverendo Wright, che usava parole molto forti, anche Michelle Obama era molto vicina a lui, e quindi l'idea è che ci sia comunque un'atmosfera che in qualche modo appartiene a una sinistra un po' radicale, che è anti-business, che vive l'orgoglio di essere nero quasi con un sentimento anti-bianco. E poi nel dibattito c'è questa cosa. Ecco, perché secondo te? Perché se no non faremmo queste trasmissioni e molte altre, diciamo, dei talk show, dei canali via cavo americani. Se ne parla e ovviamente queste cose ci sono, non le voglio negare. Non credo che siano un fenomeno davvero decisivo come è stato ovviamente nei decenni passati. Tutto ciò, la storia di Obama e anti-business, che mi sembra sostanzialmente una stupidaggine, sono delle robe molto legate alla campagna elettorale. Siamo in una fase di pre-campagna elettorale perché il 2 novembre si vota per le elezioni di metà mandato e ovviamente insomma, gli attacchi, le accuse al presidente in carica e al partito in carica da parte dell'opposizione repubblicana si intensificano e usano anche questi mezzucci. Ecco, però quando Jeffrey Immelt, capo della General Electric, di passaggio tra l'altro in Italia, oppure quando il capo di JP Morgan Chase, Jamie Dimon, e così ad andare l'amministratore delegato di Verizon, gruppi importanti di ispirazione confindustriale, esprimono un parere anti-business nei confronti di Obama, beh, sarà una stupidaggine, ma è una realtà. Sì, insomma, queste cose ovviamente, ripeto, anche queste non le nego, però come si fa a pensare davvero che un presidente degli Stati Uniti, esponente di un partito democratico che da sempre è super finanziato da Wall Street, dalle grandi compagnie, dai grandi istituti finanziari, dai dipendenti, dai dirigenti di Wall Street, sia anti-business? Il presidente degli Stati Uniti, ma non è anti-business il presidente del Brasile, Lula, che era, come dire, il capo del sindacalismo? Insomma, mi sembra, sì, certo, immagino che le grandi industrie, insomma, vogliano delle cose di più da questa amministrazione, ma fino a dire che che anti-business, sì, in effetti il problema credo che sia stata un po' la retorica populista che Barack Obama ha usato contro le banche, per esempio nel momento in cui c'era la battaglia politica per la riforma, contro la British Petroleum quando c'è stato lo spill e così via, così via. E dunque ci sono un po' di incertezze. Però torniamo alla questione razziale e razziale al contrario. Shirley Sherrod sembrava che avesse discriminato nei confronti dei bianchi. Ecco, tu hai seguito questa storia in modo approfondita, l'hai vista anche nel contesto dei media. Ecco, come è nata questa cosa? Perché oggi, per esempio, Barack Obama, in un'intervista con la ABC, ha detto, beh, è stato un caso montato dai media. È colpa dei media, è colpa di internet, è colpa delle reazioni dei blog. È vero? È vero, ma è anche colpa sua e della sua amministrazione. Cioè, voglio dire, sarà... però potevano anche controllare questi dell'amministrazione la veridicità del fatto. Invece è bastato che Fox News riprendesse il video perché insomma l'amministrazione si muovesse e arrivasse a licenziare la povera donna. Bene, allora comunque il dibattito razzista va al di là del fatto che sono i bianchi contro i neri, che è il dibattito, diciamo, che ha più radici, ma vediamo neri contro bianchi, vediamo l'idea, come ha detto il funzionario dell'amministrazione Bloomberg, che Sarah Palin sia razzista nei confronti dei musulmani che vogliono costruire questa moschea a Ground Zero. Ecco, cosa pensi di questa idea di Sarah Palin? Ed è legittima questa accusa di razzismo nei suoi confronti? Non so se Sarah Palin sia o meno razzista. Certamente non mi pare razzista avere una posizione di questo tipo sulla moschea a Ground Zero. Mi pare che sia abbastanza legittimo, tra l'altro, diciamo, non è la sola, non sono soltanto i conservatori o i repubblicani a sostenere questa tesi. Mi pare una tesi che può essere certamente discutibile, ma assolutamente, come dire, in linea con i principi liberali. Bene, comunque Bloomberg, che è, come sappiamo, di religione ebraica, ha assunto una posizione politica invece di enclosure e quindi ha detto che secondo lui questa moschea dovrebbe esserci. Il dibattito è aperto, i sondaggi nei confronti di Barack Obama restano piuttosto negativi. Proprio ieri abbiamo visto un sondaggio al di sotto del 47%. Le difficoltà dunque continuano sul piano dell'immagine per il presidente. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili, ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Ed eccoci alla canzone del giorno. Dopo mesi di incertezze, la produzione ha annunciato l'inizio delle prove di uno spettacolo legato a Spider-Man. Lo spettacolo avverrà a Broadway, le canzoni sono della band U2. E dunque dedichiamo proprio a U2 la canzone del giorno, Hold Me, Thrill Me, Kiss Me, Kill Me. Bene, da New York è tutto. Grazie a Christian. Grazie a Mario. Ci sentiamo prestissimo. Mario Platero vi saluta, vi dà appuntamento a lunedì. Goodbye and get going! America 24.